è una riproduzione, ogni produzione è una riproduzione. Prima del salario l'operaio ha prodotto il pagamento suo e del capitalista. Prima del salario l'operaio ha prodotto il pagamento suo e del capitalista. Tutto anticipato, il capitale riproduce anche il rapporto capitalistico. Il capitale riproduce anche il rapporto capitalistico. L'operaio vende sempre la propria forza lavoro, il capitalista l'acquisisce e si arricchisce. L'operaio vende sempre la propria forza lavoro, il capitalista l'acquisisce e si arricchisce.